Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona settimana, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Settembre dietro l'angolo, si ritornerà presto sui banchi di scuola e se la campanella dell'inizio dell'anno scolastico appunto non è ancora suonata, è suonato l'altro allarme, il caro libri, come ogni anno, ormai ci siamo abituati in questo periodo ad affrontare questo argomento. Il tetto di spesa per i libri fissato dal Ministero dell'Istruzione per limitare l'esborso delle famiglie viene infatti superato, secondo le principali associazioni dei consumatori, da una scuola superiore su due, proprio in quest'anno in cui la parola d'ordine dovrebbe invece essere tagliare su tutto. Per i libri leggiamo la solita tiritera. Per un ragazzo iscritto alla prima liceo si deve considerare una spesa che può arrivare fino ad oltre 500 euro se si tiene conto anche dei vocabolari, una cifra che lievita fino a quasi 900 euro per uno studente di prima media, spesa comprensiva di libri, dizionari, corredo scolastico e ricambi durante l'anno. Non bisogna arrendersi. Esistono molti suggerimenti per risparmiare anche diverse centinaia di euro sui libri dei propri figli, come per esempio, questa non è una prassi che ovviamente piace all'editoria, però c'è anche questa prassi appunto che viene, ahimè, praticata da molte famiglie: recarsi al mercatino dell'usato fa risparmiare a volte anche fino al 50% del budget previsto. Si possono richiedere i libri in comodato d'uso agli istituti scolastici dove si è iscritti, si possono scaricare i testi se disponibili dal web, ma chi l'ha detto poi che i testi si acquistano solo in libreria o alle bancarelle? Secondo un'indagine dell'associazione Altro Consumo, quest'anno molte catene di ipermercati venderanno i manuali scolastici con sconti fino al 20%. Le formule sono diverse. Coop, ad esempio, garantisce a tutti uno sconto del 10% sul prezzo di copertina, che sale al 15% per i soci. Esselunga, Auchan, Bennet e Despar Nord-Est praticano il 15%, ma solo ai soci. La risposta al caro libri è arrivata anche dagli stessi studenti, abbiamo trovato su internet di molte iniziative appunto di ragazzi che si sono attrezzati mettendo in piedi mercatini autogestiti di libri di testo usati. Ma tutto questo basta? Qual è il punto quest'anno della consueta polemica? Sentiremo i nostri ospiti abbastanza ormai consolidati sull'argomento. Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Preside Rusconi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Bentornato, anzi, perché ormai è il nostro ospite di riferimento ogni anno sull'argomento. Benvenuto a Carlo Garofolini, presidente di ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Davide Guarnieri, presidente dell'Associazione Nazionale Genitori dell'AGE. Presidente, buongiorno anche a lei. Non ce l'abbiamo ancora perché lo sentiremo per la verità più tardi. Hanno proprio nelle ultime ore lanciato una serie di iniziative, visto che si sta emendando la manovra economica di Ferragosto. Chiedono ai genitori degli interventi anche per rendere naturalmente deducibili dalla dichiarazione dei redditi le spese per la scuola. Michele Lessona, presidente del gruppo editoria scolastica dell'AGE, l'Associazione Italiana Editori. Presidente, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, il numero verde per intervenire, come sapete bene, è sempre lo stesso, è l'800240024. Avete anche l'opportunità, anche in questo caso, come sempre, di scriverci al 349-238-6666 o al nostro indirizzo di posta elettronica, che è salvadanaio@radio24.it. Magari ancora qualcuno di voi non ci sta pensando, però la lista dei testi da comprare, le scuole la diffondono prima delle vacanze estive, per cui sicuramente molte famiglie avranno già fatto qualche conto in casa. Allora raccontateci un po' come intendete organizzarvi quest'anno per rendere più sostenibile appunto questa spesa, che è molto importante. Se ci sono poi delle famiglie numerose in ascolto, figuriamoci. Prima di partire con il tema di oggi, come sempre, un'occhiata alla borsa. E siccome oggi il mercato europeo è partito molto bene, ci piace raccontarlo. Abbiamo un rialzo di Milano che è dell'1,7%. In questo momento Piazza Affari è la miglior borsa d'Europa e, siccome molti ascoltatori si lamentano che non do mai il valore dell'indice, siamo a 15.048 punti per il FTSE MIB, per il principale paniere di Piazza Affari. Segue Parigi più 1,63%, Francoforte più 1,27%. Oggi Londra si prende una giornata di pausa e chiusa per festività. Euro su dollaro 1,4513. A dare questa spinta ai mercati stamattina una notizia che è arrivata per la Verità venerdì scorso, c'è stato l'atteso discorso di Ben Bernanke, il numero uno della Banca Centrale Americana, a Jackson Hole. Ci si aspettavano delle indicazioni su nuovi provvedimenti, nuove iniziative di allentamento monetario negli Stati Uniti per continuare a sostenere l'economia a stelle strisce. Ben Bernanke ha ritenuto di non dover annunciare niente. Questo è stato visto come, come dire, è stato visto come in realtà un buon atteggiamento da parte del presidente della Fed, perché significa che l'economia americana non ha bisogno di ulteriori stimoli monetari e quindi si vede che va meglio del previsto. Questo proprio per sintetizzare ai massimi termini quanto accaduto venerdì, anche se venerdì poi la borsa ha avuto invece una giornata di nuovo piuttosto difficile. Corrono a Piazza Affari i titoli in pregiro, più 4,73% dopo il buon andamento di venerdì, ma grazie anche alla pubblicazione dei conti semestrali e ai numerosi progetti che il gruppo A, il ponte sullo stretto, la realizzazione della linea 4 della metropolitana di Milano, il terzo valico Milano-Genova e tanto altro ancora. E quindi oggi il mercato, grazie anche a questo, torna a spingere il settore industriale. Ansaldo più 2,63, Intesa San Paolo più 2,58, bene anche molti titoli del settore bancario, Autogrill più 2,57, Banco Popolare più 2,41, anche qua abbiamo i conti del gruppo, ma anche la buona intonazione di tutto il comparto bancario in tutta Europa. Mediolanum più 2,36, STM più 2,14, questi i migliori titoli della seduta. In negativo non c'è nessuno, sono sulla parità Bulgari, Lottomatica più 0,3% per i titoli Azimut. Una curiosità: balza di quasi il 12% la borsa di Atene in attesa dell'annuncio della fusione fra Eurobank ed Alpha Bank, la seconda e la terza banca greca rispettivamente. I due titoli sono stati sospesi in attesa della comunicazione ufficiale della notizia. Scambi sul petrolio, qua dobbiamo monitorarlo oggi il greggio, perché ci si aspettava naturalmente una reazione, anche se non abbiamo notizia di piattaforme colpite, la reazione appunto del mercato del petrolio dopo il passaggio terribile dell'uragano Irene sulla East Coast americana. Il WTI però stamattina era fermo a $85,46 al barile, il greggio di riferimento americano, il Brent di Londra a $111. Per la borsa è tutto, andiamo immediatamente al tema di questa mattina. Riprende la scuola riprende il 12 settembre, si torna sui banchi in Lombardia, Lazio in quel giorno, Liguria, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Marche, Molise Umbria, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige il 13 settembre in Abruzzo, il 14 in Campania Toscana, 15 settembre Sicilia, Puglia, Sardegna, 19 settembre Emilia Romagna e Basilicata. Le date come sempre sono scaglionate, ma i problemi sono sempre quelli: corredo scolastico per le famiglie è un impegno finanziario di questo periodo sempre molto, molto sostenuto, come al solito appunto quello che naturalmente costa di più è mettere insieme il corredo dei libri che servono, soprattutto per chi inizia ex novo l'indirizzo scolastico, per chi inizia appunto la scuola, per chi va in prima media, per chi va in prima superiore. Comincio subito allora col farmi raccontare un po' qual è la sensazione che vivono i presidi quest'anno. Preside Rusconi, inizio come sempre con lei, per capire la questione dall'inizio, farla comprendere anche alle famiglie che si imbattono nella spesa per libri per la prima volta. Ci spiega come funziona esattamente, chi stabilisce il corredo libri, come funziona la questione tanto dibattuta dei tetti di spesa del Ministero, perché il Ministero dell'Istruzione li fissa, li determina, è sempre stato così? Ma guardi, i libri vengono scelti dal collegio dei docenti, cioè funziona in questo modo: il docente, non so, di matematica propone il libro e deve essere approvata la proposta dal collegio dei docenti, e una volta approvata il libro entra in uso in quella tipologia di classe. E ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi anni, secondo me abbastanza positivi, nel senso che il libro di testo deve durare per almeno 5 anni consecutivi, per cui non può essere cambiato nell'ambito dei 5 anni, questo spesso invece prima avveniva e creava naturalmente malumore e difficoltà soprattutto agli studenti e ai genitori. E l'altra cosa è che da un po' di anni il Ministero impone, diciamo, attraverso una circolare, un tetto di spesa che purtroppo spesso non viene rispettato, e non si tratta di 1 euro, 2 euro, 5 euro, ma in qualche caso viene sfondato anche di 70, 80, 100 euro. È che questo tetto di spesa dovrebbe essere, diciamo così, dovrebbe avere due condizioni per poter funzionare: uno, dovrebbe essere veramente impositivo positivo, cosa che non è più di tanto, insomma, perché ci vorrebbe una vera e propria legge che dicesse che per quell'anno non si può superare questa cifra. Due è che si può anche mettere un calmiere, ne parlava già Manzoni nei Promessi Sposi, il calmiere per il pane, però se poi aumentano, non voglio fare il filo editore, però mi rendo conto come cittadino dei problemi che hanno anche gli editori, le tipografie, sì, eccetera. Se aumenta la benzina, aumenta la carta, aumenta l'inchiostro, aumenta tutto, aumenta il costo del lavoro, rimane difficile poi rimanere nell'ambito, diciamo, di certe cifre che spesso nel corso di 2-3 anni sono così in qualche modo imbalsamate dalla circolare del nostro ministero. Insomma, questo pone dei problemi. Come risolverli? Avete già voi accennato il comodato d'uso e aggiungo pure io un mio leitmotiv ormai da anni: libri di testo meno sofisticati, meno pretenziosi, meno ricchi di patinature, foto a colori e tanti altri materiali che spesso non vengono, questo è ormai un sapere comune, non vengono neppure usati durante l'anno né dagli studenti né dagli insegnanti. L'aumento dei tetti di spesa, Presidente Rusconi, è determinato dunque dal fatto che pur essendo imposti questi tetti dal Ministero dell'Istruzione, appunto all'interno di molte scuole non vengono rispettati perché si scelgono libri più costosi. Qual è secondo lei, insomma, la prassi più discutibile che le scuole praticano, anche se dobbiamo ricordare che il Ministro Gelmini ha promesso in un'intervista rilasciata al Messaggero qualche giorno fa, l'ho ritrovata anche sull'Ansa, appunto, che verranno avviati anche dei monitoraggi molto severi e siamo pronti, ha detto la Gelmini, a mandare gli ispettori nelle scuole che abbiano sforato pesantemente i tetti di spesa. Poi tanto che cosa succede, voglio dire, non ci saranno delle punizioni esemplari, però insomma magari una strigliatina alle orecchie non fa male. Sì, però l'ispettore che fa fotografa una situazione, diciamo così, anomala, ma non è che poi abbia il potere di sanzionare chi? Sanziona il collegio dei docenti, perché non è che può sanzionare il dirigente scolastico, insomma. Io stesso come dirigente scolastico, siccome credo nel calmiere da questo punto di vista, almeno in varie situazioni mi sono opposto, però diciamo vado un po' oltre quelle che sono anche le mie funzioni e le mie prerogative, insomma, ricordo agli insegnanti la necessità di venire incontro alle difficoltà dei genitori, delle famiglie in questo momento, eccetera eccetera, però delle volte qualche insegnante mi risponde e non posso dargli torto, dice: preside, un paio di scarpe da, io le chiamo ancora da ginnastica, quelle che ormai vanno di moda, costano 200-300 euro, possibile che tutto questo cancan avvenga semplice, oppure i telefonini, insomma, io vedo ragazzi che hanno telefonini che sono strabilianti, 4, 5, 6, 700 euro, insomma, dico, tutto questo cancan avviene solamente sui libri di testo. In effetti questo ci dice anche molto, mi dispiace sottolinearlo, della sottovalutazione che la nostra società, i nostri genitori fanno dell'impegno scolastico, insomma, senza per questo diciamo così andare a blandire le forme più sfacciate di aumento dei libri di testo. Questa sua presa di posizione, Preside, la conosco molto bene perché so e lo ricordo che ce la ribadisce ogni anno la questione che, come dire, si rientra dalle vacanze e che ci sono molte spese che aspettano al varco delle famiglie, questa siccome va sostenuta tutta in una volta magari, ecco, è un po' più pesante per questo motivo. Capisco anche bene che poi qualche volta i ragazzi hanno delle pessime abitudini su altri generi di consumo, ma magari una famiglia un bel paio di scarpe, anche se costose, può decidere di comprarle adesso piuttosto che il prossimo mese, invece per i libri bisogna presentarsi con il corredo scolastico tutto a posto quando la scuola inizia. Spesso uno zaino costa quasi la metà di un corredo di libri di testo, però è una scelta, diciamo, più di moda che è, come dire, sì, quella, però mi scusi, l'insegnante, prego, che lei, per fare un esempio, ha citato prima, oltre a ribadirle il fatto, sì vabbè, tutto questo cancan si fa solo per i libri di testo, ma poi per le scarpe all'ultima moda non c'è tutta questa polemica, ed è poi anche un'altra motivazione più seria sul perché sceglie un libro più costoso rispetto ad un altro e non riesce, concorrendo appunto in questa maniera poi tutto il corredo dei libri, a non rispettare il tetto di spesa? No, poi so, ma che lei, guardi, per esempio, la sua scuola la rispetta, liceo Newton. Sì, lo rispettiamo, questo perché io in questo credo molto, nelle disposizioni che prendiamo come comunità scolastica e ci metto nell'idea di comunità scolastica anche il mio ministero, insomma. Ripeto, è che anche la scelta del libro di testo avviene spesso in maniera molto frettolosa, io lo vedo perché faccio prese da tanti anni, arrivano i rappresentanti dei libri con il libro più gettonato, con quello più patinato, con quello più gradevole e così via. C'è una specie di supermercato un po' del libro. I libri dovrebbero essere anche in questo spesso invece una lancia in favore di una maggiore sobrietà, di una maggiore umiltà, diciamo così. Io ho visto dei libri di testo giapponesi e non credo che i ragazzi giapponesi, anzi insomma, stanno molto meglio dei nostri da tutti i punti di vista come risultati, pure in classi di 35-40 alunni in qualche caso, e sono carta riciclata, poche fotografie, insomma c'è purtroppo ha preso mano una moda per cui l'editore che volesse anche essere un po' più francescano si troverebbe fuori mercato, perché poi l'erba cattiva si ha sempre cacciato via l'erba buona. Allora abbiamo pronto, peraltro nel frattempo siamo lo abbiamo raggiunto telefonicamente, anche il presidente dell'Associazione Nazionale Genitori, Davide Guarnieri, che saluto. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, guardate, prima di farvi dire la vostra sull'argomento di questa mattina, è giunto il momento che io vada già a fare la prima pausa, poi cominceremo a coinvolgere anche gli ascoltatori all'800240024. Mi piacerebbe sentire appunto come si stanno attrezzando le famiglie italiane per fronteggiare le spese scolastiche di quest'anno. Molti ascoltatori anche che ci stanno scrivendo. Io vi inviterei a non soffermarvi sulla battuta fatta dal presidente Rusconi sulla questione delle scarpe, i telefonini e quant'altro. Andiamo al sodo della questione di stamattina: quanto vi costa il corredo scolastico, ma soprattutto quello dei libri per far avviare quest'anno scolastico ai vostri ragazzi? Come vi state attrezzando anche per risparmiare qualcosa? Quindi andiamo alla questione essenziale del problema tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina Salvadanaio si affronta un tema che riguarda praticamente tutte le famiglie che ci stanno ascoltando, più o meno, a meno sono escluse quelle che hanno figli ormai un po' grandi, ma insomma parliamo dell'avvio dell'anno scolastico. Quest'anno abbiamo affrontato questa trasmissione un po' prima del previsto, in solito la facciamo a ridosso dell'avvio proprio del calendario scolastico. Si inizia il 12 settembre in gran parte del nostro paese, ma quest'anno, per dare qualche suggerimento in più su come poter risparmiare, ci siamo mossi un po' prima, anche perché comunque poi le polemiche delle associazioni dei consumatori sono già partite. Secondo Codacons il 30% delle scuole italiane sfora i tetti ministeriale. Per la verità avevamo addirittura una stima più preoccupante, una su due, quindi il 50%. Sono contenuti, ammette il Codacons, gli aumenti del corredo scolastico, però secondo l'Associazione dei Consumatori, il Ministero dell'Istruzione quest'anno ha alzato i tetti ministeriali in percentuali variabili dall'1,4 al 3,8% a seconda della scuola, mentre era stato promesso appunto che questi aumenti non ci sarebbero stati. In ogni caso l'Associazione dei Consumatori ha invitato le scuole ad organizzare la giornata dell'usato, ma io credo che questa non sia poi una iniziativa, a qualunque livello la si faccia, appunto, che piace molto all'editoria ufficiale. Michele Lessona, presidente del gruppo Editoria Scolastica dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori, anche lui uno dei nostri ospiti, punti di riferimento per l'argomento ogni anno. Ha sentito prima che il presidente Rusconi ha riconosciuto all'industria della necessità ogni anno comunque di fare un micro aumento dei prezzi, perché altrimenti non si riesce neanche più a, come dire, a far fronte a tutte le spese che anche voi tutto sommato dovete sostenere. Ma è vera questa cosa, dottor Lessona, che ogni anno anche a fronte di un micro cambiamento di un libro, come dire, poi l'aumento del prezzo sullo stesso testo invece è un po' più forte rispetto al piccolo cambiamento che si fa? Ma vorrei, anche ad uso degli ascoltatori, precisare come avviene la determinazione dei prezzi, perché noi siamo tenuti per legge, diciamo, a fissare il prezzo entro il 31 gennaio di ogni anno, a mantenerlo inalterato fino al 31 gennaio dell'anno successivo, depositando i listini presso il Ministero dell'Istruzione. Quindi sono impossibili e illegittimi soprattutto modifiche di prezzo nel corso dell'anno, a meno che non intervengano variazioni nel regime IVA, cosa della quale si sta parlando in questi giorni, sì. No? Quindi se aumentasse l'IVA è chiaro che aumenterebbero anche i libri. I prezzi delle novità vengono determinati nel momento della pubblicazione e anche questi prezzi sono depositati presso il Ministero. Per cui sia noi sia il Ministero, con il quale condividiamo la banca dati sia dei titoli sia delle adozioni, siamo in grado di dire esattamente quanto è stato l'aumento su media aritmetica da un anno all'altro, confrontando i prezzi dell'anno in corso con quelli dell'anno passato, dei medesimi testi ovviamente. E per questi testi sui quali, diciamo, si può fare questo monitoraggio, che sono oltre 25.000, l'aumento è stato dello 0,91% per i testi della secondaria di primo grado e dell'1,22% per la secondaria di secondo grado. Queste sono le cifre ufficiali certificate anche dall'Istat. Chi parla di aumenti dell'8% sarei molto lieto di sapere le paniere che ha preso a riferimento. Ecco, su quale fonti si basa. Il tema poi delle nuove edizioni. Il preside Rusconi, io uso ancora il termine precedente, si dovrebbe dire dirigente scolastico, no? ha parlato di 5 anni. In realtà i 5 anni di obbligo di mantenimento dello stesso libro in adozione vale per la scuola primaria, per la secondaria di primo e secondo grado sono 6 gli anni consecutivi e sono 5 anni l'obbligo per gli editori di mantenere inalterato il contenuto di un determinato prodotto. Quindi questo sta avvenendo? Questo avviene ed è la legge 169 del 2008, non è di ieri, è di 3 anni fa. Però ci sono state delle deroghe, me lo raccontava lei prima dell'inizio della trasmissione. Certamente delle deroghe dovute da quale fatto? L'anno scorso i programmi del biennio sono stati pubblicati, resi ufficiali in Gazzetta Ufficiale, a giugno inoltrato. Questo significa che gli insegnanti che l'anno scorso hanno fatto le adozioni di certi libri le hanno fatte tra virgolette al buio, perché poi perché devono farle entro metà maggio, nella seconda decade di maggio. Quindi il Ministero quest'anno ha detto chi in prima superiore l'anno scorso aveva adottato un libro può derogare alla 169/2008 perché ovviamente non era nelle condizioni per poter fare una scelta oculata. Così stesso fenomeno si ripresenterà quest'anno perché i programmi dei tecnici e dei professionali, anche quelli, sono usciti a luglio. Poi occorre anche aggiungere che il tetto di spesa di quest'anno, quello del quale si parla di aumenti dall'1,4 al 3%, dimenticandosi che quel tetto di spesa è stato bloccato per 3 anni, quindi questa variazione in teoria va a coprire 4 anni di incrementi prezzi, quindi se il 3% in 4 anni è un incremento folle, ecco, io resto un attimo allibito. Basito dalla considerazione. Ecco. Allora, queste poi sono tutte le cose che succedono appunto nella dinamica scolastica. Purtroppo, quando poi ci mettiamo dalla parte delle famiglie che hanno, come il caso di Alessia, adesso le faccio raccontare la sua esperienza, 5 figli, tutti in età molto, molto bassa, è chiaro che poi sono molto poco sensibili alle problematiche appunto interne dell'insegnante che non ha tempo appunto per fare un esame accurato dei nuovi testi appunto e quindi deve sceglierli a maggio mentre il ministero impone le sue cose in un altro frangente appunto durante l'anno. Per cui Alessia, invece, quali sono i problemi che lei affronta con i suoi 5 ragazzi? Guarda, complimenti. Io la più grande ha 12 anni, il più piccolo ha 4 anni. Dico che la più grande adesso fa il primo liceo, la seconda praticamente fa la terza media. È una cosa allucinante, con le mie bambine, con le prime 2 bambine, io non riuscivo a nelle medie, anche nelle elementari, non riuscivo a fare il passaggio dei libri? No, alla condivisione. La condivisione non riuscivo, e poi prescindere una cosa, cioè noi avevamo delle borse piccolissime quando andavamo a scuola, sti ragazzini sembrano che non lo so, sono dei muli. Usano dei libri grandissimi, pesantissimi. Che comunque hanno lo stesso contenuto. Alessia, non ho capito, la grande quest'anno prima liceo? Quindi sì, la grande prima liceo. Quanto le costa? 800 euro. 700 euro la terza, la seconda che va in terza media. Cioè dalla seconda alla terza media 700 euro di libri nuovi deve spendere? Sì, perché non servono niente i libri dell'altra bimba, della bimba grande. No, ma mi sto chiedendo come mai c'è una riorganizzazione così radicale dei libri della seconda e della terza media. Che cosa di nuovo ha dovuto comprare? Tutto italiano, storia, geografia, tutto. Tutto ho dovuto ricomprare, perché quella della la mia bambina, la mia prima, non serviva a niente, nessun libro. Bene o male, dai, per fortuna qui a Roma abbiamo, a Longodeve Roberdan, abbiamo la vendita dei libri, per cui un pochettino ci rientro nelle spese. Si è organizzata, insomma, con le altre mamme, con l'usato e quant'altro. Peraltro non abbiamo per niente ancora aperto la parentesi dell'ebook, di quello che è possibile trovare su internet, ma vedo che ancora quello è un mondo quasi completamente inesplorato. Alessia, in bocca al lupo. Però proprio farò i mutui, devo fare il mutuo. Tenga duro. È bello avere 5 figli. Esatto, perché... tenga duro almeno per quello, perché sicuramente ha una bellissima famiglia. Allora, vorrei andare al presidente dell'associazione genitori, perché chissà quante di testimonianze come quella che abbiamo appena ascoltato raccoglie ogni giorno, proprio in qualità di presidente dell'associazione nazionale genitori. Ma mi spiega perché, passando dalla seconda alla terza media, si deve ricomprare radicalmente tutto il corredo dei libri spendendo 700 euro, presidente Guarnieri? Ma in questo caso non saprei, potrebbe esserci stato un cambio di sezione, e capita spesso che da una sezione con l'altra i docenti non si siano accordati, quindi tutti i libri siano cambiati, oppure non so se la ragazza ha dovuto ripetere l'anno e quindi ancora una volta il cambio di sezione. Certamente il colpo capita in prima media, capita in prima superiore. Io sono papà di 4 figli anch'io. Sì, infatti me lo ricordo, infatti ecco. volevo io dirlo, però poi... E devo dire che la mia prima, dal primo al secondo anno delle superiori, comunque ha avuto un'ulteriore spesa da sostenere e così via. Aggiungerei veramente come problematico il dato dei cosiddetti libri consigliati, che quindi non rientrano nel tetto di spesa, ma di fatto non se ne può fare senza, così come è consigliato il vocabolario X perché lo vuole l'insegnante, e anche se in casa ne abbiamo già altri 3 bisogna comprare quello e così via. Vorrei allargare il discorso più complessivamente, vorrei parlare della spesa complessiva per l'istruzione che una famiglia ha, consapevoli che gran parte dei genitori hanno a cuore il valore dell'istruzione, assolutamente, è chiaro che tra le scarpe e i libri si scelgono i libri, purché fossero libri di qualità, e di questo dovremmo aprire un argomento, distinguendo tra i libri manuali, perché un libro è un valore che resta, il manuale poi è anche transitorio, ma comunque pensiamo anche alle spese per i trasporti, che sono aumentate vertiginosamente, pensiamo sì anche un po' alla cancelleria, sì, i sussidi tecnici e così via. Davvero, ricordo a tal proposito, quest'anno non li abbiamo invitati, ricordo il famoso kit dei commercianti proposto da Confcommercio, per l'appunto, che è quello non griffato, non firmato, non mi ricordo adesso qual è la spesa minima base, ma all'interno appunto di questo pacchetto c'è un tot di quaderni, quadernoni, penne, matite, cancelleria varie, appunto, ma la spesa è assolutamente, forse c'è anche lo zaino, appunto, anche lì non griffato, non è di Hello Kitty o degli altri personaggi, appunto, dei cartoni animati, però è assolutamente, come dire, un prodotto dignitoso che fa respirare le famiglie anche in questo senso. Presidente Guarnieri, lascio concludersi. Stiamo facendo la nostra parte e invitiamo tutti i genitori a compiere scelte oculate, non cedere alla pubblicità e così via. Dall'altra parte ci chiediamo se l'istruzione è un problema delle famiglie o è una scelta dell'intero paese. Quindi la proposta forte che facciamo proprio oggi, giorno in cui si va alla stretta finale rispetto alla manovra finanziaria, è possibile che in un paese in cui si può detrarre lo yacht piuttosto che il cane o la spesa per lo sport, non siano detraibili o deducibili i libri scolastici, le spese per l'istruzione? Avete una buona lobby che vi rappresenta in Parlamento, no, presidente? Non abbiamo lobby, perché come avete fatto a raggiungere le famiglie, ecco, anche se le famiglie sono quelle che votano. Ecco, molto bene. Allora, quindi solleviamo anche l'attenzione, ci fosse qualche parlamentare di buona volontà che ci ascolta, che magari si prenda questo documento che io dell'AGE, dell'associazione appunto genitori, che chiede di rendere il maggior numero possibile di spese per la scuola appunto detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Allora sì, abbiamo adesso già la nostra nuova pausa, poi andiamo anche al presidente dell'ADICO Garofolini, che tra l'altro so che è un altro sostenitore in termini non proprio positivi della questione dei libri consigliati rispetto appunto a quelli di testi obbligatorio, di testo obbligatorio che vanno presi. Poi abbiamo altri genitori, e tra pochissimo Salva Danaio. Do una veloce lettura ad alcuni messaggi, ripeto, tralasciando tutte le considerazioni sterili che si stanno facendo sulla questione delle scarpe e degli altri accessori che vengono comprati per i ragazzi, perché assolutamente nessuno ha detto che non debbano essere comprati. Si faceva solamente la consueta considerazione che facciamo ogni anno, magari, ecco, per acquistare un libro un po' costoso qualche famiglia storce il naso e magari preferisce comprare la scarpetta griffata per accontentare il proprio bambino. Non è detto che sia così per tutte le famiglie, perché qualcuno magari adesso, data la fortissima crisi economica che c'è, non ha i soldi né per fare l'una né l'altra spesa, per cui il massimo rispetto anche quando si parla di queste cose si va ad indagare all'interno del bilancio familiare. C'è un bellissimo messaggio di una ragazza, Claudia, maturata a luglio, quindi sarà una 19enne, che ci scrive: liceo classico di Venezia, i primi di agosto ho affisso la lista dei libri del triennio, molte nuove edizioni alla bacheca della scuola, e beh, non ho ricevuto nessuna chiamata. Speriamo che, come dire, questa sua lista affissa in bacheca a scuola non sia stata strappata. Claudia, magari vada a ridare un'occhiata a vedere se ancora c'è. Tanti altri messaggi. Daniele da Bergamo ci scrive: se vado al ristorante non devo portarmi le posate, perché non li fornisce la scuola? I libri acquista meglio e a noi toglie un problema. Daniele, vediamo se anche questo è possibile. In molte scuole la pratica del comodato o d'uso viene praticata, vediamo se la strada è questa. Intanto vado a Carlo Garofolini, presidente di ADICO, Associazione Difesa dei Consumatori. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, qual è la sensibilità della sua associazione dei consumatori su questo argomento? Fino adesso si sono dette bellissime cose, credo che siamo tutti abbastanza d'accordo su quelle che possono essere le strategie, e ci siamo focalizzati su quelli che sono i problemi delle famiglie in questo momento, perché tornare dalla scuola, tornare dalle ferie e trovarsi a dover far fronte a caro scuola in questo momento magari non è nella voce del bilancio delle famiglie una spesa che si era preventivata appunto alla vigilia delle vacanze. Comunque noi come ADICO abbiamo fatto anche delle rilevazioni per verificare un attimino quello che è il costo reale che le famiglie andranno a spendere per i figli che dovranno iscriversi, e parliamo comunque di scuole pubbliche e parliamo di una posizione che l'ADICO ha riguardo a questa situazione, che è quella di privilegiare sempre i mercatini dell'usato, la rete, e incentivare la scuola a dare libri in comodato uso o anche proporre le detrazioni per queste spese. Il fatto è che quando si deve fare delle rilevazioni e fare delle proiezioni e verificare dei dati è molto difficile, perché primo, i dati che sono emersi, di cui voi avete già anticipato alcune cifre, si mantengono sempre a dei valori massimi che erano stati registrati negli anni precedenti. Poi che le variazioni di questi dati vengono determinate da quelli che sono i libri consigliati o meno, che anche qua ci sarebbe da fare un approfondimento, perché poi da consigliati scopriamo che diventano obbligatori. Per cui è inutile non metterli subito nel calendario, ma bisogna già metterli in preventivo, e purtroppo questi incidono molto su quello che è il costo finale degli accessori dei libri. Poi c'è il dramma di tutti i corredi, che parliamo di zaini, astucce, agende, che si può arrivare fino a spendere 120 euro, anche se si può risparmiare sensibilmente cercando delle soluzioni di marchi meno griffati rispetto a quelli che sono un po' le mode che in questo momento vanno in moda. Anche se ci rendiamo conto che lì poi si aprono delle belle lotte con i ragazzi, e molto spesso i genitori non sono in forza, non riescono a soprassedere rispetto a certe richieste, però anche lì, insomma, lì è questione proprio di educazione, presidente. Però sulle spese obbligatorie, forse questa è la tematica che più ci interessa. Esattamente. Però il corredo non puoi sottrarvi, perché l'astuccia, lo zaino e agende, per esempio, sei tenuto a doverle acquistare come libri, perché sì, altrimenti non sei in condizione di poter affrontare l'anno scolastico. Ma poi ci sono i prodotti di cartolibreria, come le matite, le penne, i quaderni, le colle, le forbici, e dopo ci sono le strumentazioni tecniche come i compassi, le squadre, certi album in formato 3, A4, un tipo di foglio rispetto a un altro. Presidente, ci dia una ricetta, la conosciamo bene questa lista, le mamme e i papà che ci ascoltano la conoscono bene. Quali sono i suggerimenti che voi fornite come associazione dei consumatori per rendere questo periodo dell'anno non un incubo per chi ha magari 2 o 3 figli che iniziano la scuola, iniziano una nuova avventura scolastica, fanno la prima liceo o la prima media? Allora, innanzitutto soprattutto rivolgersi sui mercatini degli usati è molto importante, però bisogna stare attenti ai codici perché si rischia purtroppo a comprare un'edizione che diventa già vecchia all'inizio dell'anno, quindi dà delle difficoltà già al studente a mettersi in competizione con quelli infatti, che sono i suoi compagni. Infatti ce lo stanno anche segnalando due genitori che ho pronti ad intervenire, poi li sentiamo. Quindi sì, i codici. Questo è un grosso problema perché le edizioni ogni due anni cambiano, non si capisce perché, però è chiaro che... Ma noi ci hanno detto che non devono più cambiare adesso, però vabbè. Sì, però vabbè, comunque attenzione ai codici quando si acquista sull'usato e anche allo stato dei libri, perché poi dobbiamo scopriamo che magari li teniamo per più di un anno. Poi io consiglio anche molto di usare la rete perché abbiamo fatto delle indagini noi dove abbiamo visto che per esempio dizionari in particolar modo come i manuali di periti e anche altri libri si riescono a trovare in rete, per esempio nei siti di eBay, ecco uno su tutti, e che questo permette probabilmente dei notevoli risparmi anche nell'ordine del 50-60% rispetto al prezzo di listino. Poi fare molta attenzione a quelle che sono le proposte che i centri commerciali offrono in termini di kit, perché ci sono delle marche, come abbiamo detto, meno note, che si può risparmiare molto. I gruppi d'acquisto, magari i genitori si possono anche organizzare in questo modo. Sono sicura che poi presidente dell'Associazione Genitori Guarnieri ci darà anche altre indicazioni. Le chiedo di essere sintetico, Garofolini, perché voglio andare agli ascoltatori. Ultimi suggerimenti? Sì, poi gli suggerimenti sono anche rivolgersi ai comuni, perché so che ci sono dei comuni dove propongono d'accordo con gli esercenti dei kit già sia di libri che di materiale preventivati come cifra di cui si rischia veramente poco a dover sborsare ulteriori costi, e dopo in particolar modo verificare appunto la possibilità di scaricare qualcosa da internet qualora ci sia la convenienza. Infatti io volevo anche ribadire la questione del fare il corredo scolastico, tutto quanto, libri, cancelleria e quant'altro, anche proprio negli ipermercati, perché tutti quanti, ognuno di noi ha la carta fedeltà e magari non ne sappiamo che detenendola, andando al supermercato di sempre dove ogni sabato appunto riempiamo il carrello della spesa, possiamo anche risparmiare molto sull'acquisto dei libri per la scuola, uno sconto che si traduce spesso poi in un buono spesa da utilizzare in un altro momento, però anzi insomma meglio che niente. Rapidamente i due papà l'ascolto al nostro microfono. Matteo da Roma. Gaia mi dice, la mia collaboratrice, che te l'ha detto che sono dei papà, ho immaginato, Matteo ci dica. No, non sono un papà, ma sono uno che fa il mercato del libro usato da 13 anni, da quando ne ho 19, e in questo momento sto tornando a Roma, diciamo che ho smesso questa cosa, è molto faticosa comunque, a parte questo. Volevo intervenire su un paio di casi che ho ascoltato sulla radio e un paio di notizie che... Rapido Matteo, che stiamo chiudendo, sì. Allora, la prima è appunto che c'è un terrorismo che si inculca nei genitori del codice. Il codice spesso si modifica, il libro rimane identico, cambiano due pagine o c'è un CD allegato, il codice cambia, il libro rimane lo stesso e il libro è identico, soltanto che il genitore, spaventato dal terrorismo del professore, non acquista il libro usato. Questo è per esperienza di 13 anni o migliaia e migliaia di persone. E il secondo è anche che i libri al mercato del libro usato non vengono più i ragazzi a comprarlo, ma bensì i genitori, che vogliono sempre i libri nuovi, puliti, perfetti, e il mercato del libro usato non sta anche diminuendo per un problema di edizioni, ma anche perché i genitori stessi vogliono il libro nuovo, vogliono il libro pulito, io vendo anche il nuovo, e vogliono il 50% delle persone preferisce il nuovo all'usato. Quindi prima padre. Cosa impartire delle lezioni di buon comportamento insomma ai genitori, adesso non va bene volere sempre il bene per i figli, ci mancherebbe altro, adesso qua mi prenderò anche la strigliata di Rusconi che ovviamente rappresentando il mondo della scuola so benissimo che a lui piace anche l'odore dei libri, quindi giudicherà, giustificherà assolutamente completamente il comportamento dei genitori che vogliono il nuovo. Matteo, ho terminato, che altrimenti vado ad Antonello? Io ho finito e vi auguro va bene, quindi insomma attenzione al codice del libro, al terrorismo che fanno alcuni insegnanti quando dicono questo libro non si può usare perché ha un codice diverso e poi magari tra quello e l'altro c'è una micropagina di differenza. Antonello da Torino, rapidissimo, poi chiudo con i genitori. Sì, ma credo di ripetermi con quello che ha detto adesso il papà. Io ho due figli 18 e 16 anni, a volte non ho comprato dei libri usati perché il codice non corrispondeva. Poi guardando il libro è assolutamente identico e quindi magari l'anno dopo ho un testo diverso, l'ho comprato pur con codici diversi, e nessuno si è mai accorto della differenza. Certo, insomma, fatto una volta l'errore, Antonello. Fossero cambiati volutamente, diciamo, per stimolare l'acquisto della nuova edizione, e quindi tutti i discorsi. No, ma magari banalmente, Antonello, il cambiamento del testo, anche se di poca cosa, di poca entità, di piccola entità, è stato fatto. È giusto che il libro nuovo venga rappresentato da un codice nuovo. Lì si tratta di capire poi se l'insegnante lo accetta o meno. Rusconi, presidente Rusconi, vuole intervenire rapidamente su questo punto? Ma guardi, secondo me, lei l'ha detto all'inizio della trasmissione, il problema si risolverebbe con le banche dei libri nelle scuole. Per fare questo, perché tanto non andrebbero a intralciare il lavoro degli editori, perché più o meno le devono acquistare. Il problema è che le scuole, io l'ho tentato quando ero un giovane insegnante tanti anni fa in una scuola di periferia romana, e la cosa riusciva. E il problema è avere i soldi iniziali per comprare questa gran massa di libri. Lei tenga conto che nel mio liceo ogni anno si iscrivono 250-270 alunni nuovi, con una media di 200-300 euro a studente. Ci vuole una cifra notevole, però sarebbe una cifra che si potrebbe capitalizzare, nel senso che rimane là, l'anno successivo i ragazzi restituiscono il libro, se lo hanno distrutto lo devono ripagare, e sarebbe anche infatti, un modo, diciamo, e il problema è mettere in piedi anche delle belle squadre di professori che si impegnino in questo, e so che molti magari non hanno neanche voglia, quindi anche molta buona volontà all'interno della scuola. Davide Guarneri, presidente dell'associazione genitori, per concludere con lei 30 secondi, ultimi suggerimenti di buonsenso alle famiglie, agli insegnanti, a chi vuole, per cercare di partire tranquillamente quest'anno. I problemi ne abbiamo già molti e non ne vorremmo altri aggiuntivi. Ma sicuramente gruppi d'acquisto, ecco il valore dell'associazionismo che sta accanto alla scuola e può proprio aiutare la situazione del preside Rusconi anche in questo investimento iniziale. E secondo, la responsabilità, un richiamo forte alla responsabilità di ogni persona, ogni organismo, penso ai collegi docenti e ai consigli di istituto che devono autorizzare le deroghe, penso anche ai dirigenti scolastici che secondo la legge, si dice, dovrebbero vigilare perché le delibere dei competenti organi concernenti l'adozione siano assunte nel rispetto delle disposizioni. Penso ai book in progress, la possibilità quindi di ridimensionare anche il libro in sé, integrandolo con dispense e con molte altre modalità, quindi è un modo nuovo di fare didattica. E poi un appello: utilizziamo i libri, abbiamo elenchi di libri non usati, cui acquistati e alla fine non usati. Una razionalizzazione scolastica complessiva, mamma mia, ci sarebbe veramente da ribaltare tutto qua, però insomma già piccoli passi si possono sicuramente fare. E comunque un invito anche ai ragazzi a cominciare con un sorriso in faccia al nuovo anno scolastico. Io vi invidio moltissimo perché noi non abbiamo più questa opportunità ormai fuori dalla scuola da tantissimi anni. State vivendo degli anni imperdibili, quindi godeteveli fino in fondo. Magari i problemi, insomma, per l'acquisto dei libri lasciateli a mamma, papà, vi aiuteranno sicuramente a cominciare meglio l'anno. Grazie a tutti, a domani.